fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Eccoci qua, cari amici di Radio 24, in diretta agli studi di Milano alle 17 minuti e 54 secondi, compari dei conti della Belva. Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli. Renato Cifarelli che è a metà oggi tra un centauro e gli occhialini di un ragionat, devo dire la verità, però, e c'è anche Oscar Giannino che naturalmente vi saluta, vi ringrazia di sentirci in diretta in podcast, speriamo di darvi il podcast un po' prima di lunedì, speriamo che l'efficienza della radio ci consenta di metterlo nel giorno stesso, nel frattempo io continuo a scusarmi, speriamo che ci abilitano a farli, ma detto questo, come sempre vediamo in questo sabato di oramai primavera inoltrata, San Sisto, auguri a tutti quelli che si chiamano Sisto, di cosa ci occupiamo oggi nella trasmissione per consentirvi di intervenire telefonando all'800 24 0024, di mandarci i vostri sms al 349 238 6666 e naturalmente di beccarci o di esaltarvi con i social, cominciando un po' di tweet, su conti della Belva. Esattamente. Allora, i temi di cui parliamo oggi, naturalmente cominciamo con il punto della settimana sui dati travolgenti della ripresa italiana. Lo sapete, è diventato un appuntamento obbligato, noi tra noi lo chiamiamo il seminario in crisi, per così dire, perché Mario non è molto dell'idea. Vabbè. Non è lui che è in crisi, è Mario che però legge i dati della crisi che sarebbe sparita e noi tentiamo come effettivamente sempre. Un Mario è andato alla Camera a leggere i dati della crisi, io mi confondevo, esatto. Esatto. Non so, ma certo, Draghi è certo il seminario Draghi. O il Draghi? Mario, però, sempre Mario si chiama. Comunque, un punto sui numeri senza i veli della propaganda, come sempre, e senza pregiudizi ostili o favorevoli, perché non iniziate subito a dirci gufi qua, no, e quindi cominciamo con quello, poi abbiamo un bel blocco in cui vi chiediamo cosa pensate di una norma che per il momento è stralciata ma ricomparirà in Parlamento e che era già scritta in un provvedimento del governo sul fatto che ogni vostro smartphone, ogni vostro PC portatile, un qualunque aggeggio che vada in rete possa essere infiltrato, ecco, in remoto, quindi Trojan e così via, dallo Stato, senza alcun preavviso, senza che voi ne siate informati, in teoria per una serie di reati che passano per antiterrorismo, ma può essere la qualunque, e diteci voi, noi avremo degli ospiti per farci spiegare se davvero per esigenze di sicurezza bisogna accettare l'Orwell di Stato, quindi spiegateci. Siamo passati dallo Stato di polizia allo Stato di Trojan, posso dire. Stato di Trojan, però questo è un grande problema dei tempi che viviamo, per fortuna che il Presidente del Consiglio all'ultimo secondo per il momento però ci ha ripensato, perché i pubblici ministeri ci tengono molto, alcune forze in Parlamento anche. Poi un altro bel blocco sulla riforma scusatemi, la riforma della RAI annunciata ieri dal Consiglio dei Ministri, una riforma che non ridefinisce il servizio pubblico, una riforma che si fa dare una delega sul canone con un Presidente del Consiglio che dice ma io sarei per abolirlo e il sottosegretario a fianco dice no, io sono per metterlo nella bolletta elettrica, e che allontana così tanto i partiti dall'azienda che il Parlamento continua a eleggere un buon numero di consiglieri d'amministrazione e il governo a quel punto individua e designa il capo azienda forte e lontanissimo dalla politica e dai partiti, come si può immaginare uno schema di questo tipo, ma ne parleremo, magari voi sarete a favore, intervenite per dirci cosa pensate. E poi infine, oltre alla nostra rubrica con Cifarelli sul non si può fare, le paradossi a cui sono sottoposte le imprese italiane dallo Stato, un po' di tempo dedicato a una questione di fondo, visto che c'è l'Expo, pare che il Padiglione Italia non sarà pronto per l'inaugurazione dell'Expo, avremo il camuflaggio, no, esatto. Stendiamo un tendone pietoso. Esatto. Povero, pesata. Tanta domanda di bellezza in giro per l'Italia. E di questo parleremo appunto, visto che dopo parte anche il giubileo, perché partiamo da un libro che dice privati del patrimonio, un libro che dice teniamo fuori i privati dal mettere a reddito il patrimonio culturale museale italiano, perché questo è un esproprio mercificatore, e noi vi proporremo pagate invece solo tasse e basta. Esatto, vi proporremo la storia di una privata che ha fatto una cosa, secondo me, da estendere in tutta Italia. Ha preso un grande capolavoro di Luca Giordano e si è messo a restaurarlo all'interno di un liceo, e secondo me è un modulo attraverso il quale si dimostra come i privati, rispettando il titolo proprietario delle opere dello Stato, possano rendere fruibile, innanzitutto facendolo conoscere ai giovani, facendoli appassionare a che cosa vuol dire il restauro della tutela e stare attaccati a questo patrimonio. Lo fanno i privati, questo non lo fa lo Stato, tanto per essere chiari. Quindi mi interessa parlare anche di questo. Nel frattempo, rapido giro, su che cosa ci ha fatto incazzare di più questa settimana, Mario? Ma io, diciamo, stavo leggendo. Allora, abbiamo scoperto questa settimana che gli italiani non allocano correttamente il loro risparmio, no? Perché c'è stato il Salone del Risparmio, e in questo tripudio, diciamo, di moralismi e frasi fatte, abbiamo scoperto che gli italiani hanno troppi titoli di Stato. No? Cioè, esatto, dato lo stock, date il comportamento, se vogliamo, abbastanza abitudinario, eccetera, però abbiamo scoperto che gli italiani hanno troppi titoli di Stato e troppo poca industria. Allora, io continuerò a ribattere. Perché avete lasciato l'aliquota al 12,50 sui titoli di Stato, portandola al 26% su tutti gli strumenti finanziari, azioni, debito emessi dal settore privato, cioè dalla leggendaria economia reale? No, che dici? Quelle sono rendite finanziarie pure. E non è ricchezza, non è ricchezza. Notare, adesso non voglio rubare troppo tempo, ma anche la proposta del Movimento 5 Stelle di reddito di cittadinanza, che prevede una patrimoniale con un'aliquota lieve, una patrimoniale ordinaria con un'aliquota lieve per tutti gli attivi mobiliari e immobiliari superiori ai 2 milioni di euro, esclude dal calcolo della ricchezza, cioè del patrimonio, i titoli di Stato. E lo stesso è la proposta di legge popolare presentata dalla CISL. I titoli di Stato in questo paese non sono ricchezza. Dopodiché facciamo i convegni e diciamo che gli italiani non sanno fare l'asset allocation e non investono nell'economia reale. Questo è un paese di folli e di falliti, che c'è quasi una allitterazione in questi due termini. Caro Alberto. Ma a me ha fatto specie che il chiarimento di Draghi sul fatto che la crescita è sostanzialmente una droga monetaria, comunque un fatto esogeno, sia passato di fatto sotto silenzio dal Parlamento. Cioè ha detto: signori, state crescendo, se vi va bene forse aggiungiamo noi un punticino tra quest'anno e l'anno prossimo, però poi guarda che si rimbalza e si torna a terra. La crescita è congiunturale, non strutturale. Silenzio totale. Forse non hanno capito la differenza tra congiunturale e strutturale. Probabilmente. E poi ne parleremo, perché Seminario è in crisi, quindi adesso ce lo spiegherà. No, io invece penso che sono bello rilassato, che sono due settimane che lavoro come un matto, per fortuna, e quindi non leggo i giornali. Sono autoimmune e sono rilassato solo per quello. Io vi dirò che questa settimana mi sono imbufalito moltissimo per i toni usati dal direttore dell'agenzia delle entrate Orlandi, che ha osato dire, avendo 767 dirigenti illegittimi bocciati dalla Corte Costituzionale, solo l'agenzia delle entrate, ha osato dire agli italiani che se pensano ora ad impugnativi degli atti firmati da quei dirigenti è una cosa vergognosa. Ecco, la mia opinione, l'ho scritto su un articolo che c'è oggi sul Messaggero, è che ci vorrebbe un politico che finalmente si reimpadronisse l'indirizzo politico della politica tributaria, non lo facesse fare all'Agenzia delle Entrate, che oramai scrive i testi, li interpreta, pratica per 15 anni. Si autogiudica, perché questo è un giudizio. Si sostituisce al giudizio del giudice sull'ammissibilità delle impugnative, e soprattutto che dicesse questo ministro che siccome i giudici sono quelli che devono dire se un atto è impugnabile o meno, se un cittadino prova a impugnarle, dovrebbe dire che però in questo momento l'Agenzia delle Entrate si impegna a dare pubblicità alla lista degli dirigenti illegittimi, per consentire ai cittadini quantomeno di valutare se per quegli atti per cui sono ancora aperti i termini dell'impugnativa amministrativa, se sono firmati da quei dirigenti, provino a impugnare e ci penserà il giudice. Invece l'Agenzia delle Entrate, che pretende da noi trasparenza totale, non dà pubblicità a quella lista, esattamente come la RAI non dà pubblicità ai compensi dei dirigenti. Questo è lo Stato asimmetrico, che dice trasparenza totale da noi, io ci posso anche stare, ma lui resta opaco perché è uno Stato assoluto, e agli Stati assoluti da qualche secolo in questa parte del mondo noi abbiamo dato la risposta: si abbattono! Della belva. Ed eccoci qui, tornati in diretta alle 10:18 minuti, compari dei conti della belva. Roberto. Mario. Renato e Oscar, e cominciamo con la lettura spassionata, senza occhiali propagandistici né pro né contro, dei numeri nuovi della crisi e della travolgente, come noto, ripresa italiana in corso. E cominciamo quindi con una lettura spassionata da parte del nostro Mario Seminiero. Questa è stata una settimana nella quale, da una parte, il Centro di Studi Confindustria, dopo aver detto all'inizio dell'anno che c'era un 2,1 di trazione aggiuntiva del PIL, dice nel primo trimestre sarà più 0,2. L'OCSE ha rivisto le sue stime sull'Italia e anche lì c'è poco da ridere. Poletti, che ormai si sostituisce all'Istat nel dare i numeri sull'occupazione, dice invece partono gli occupati a doppia cifra sul tempo indeterminato e siamo solo ancora agli incentivi e non al Job Act che partiva da marzo. Insomma, come stanno le cose, Mario? Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Si è dimenticato che sì, noi ci mettiamo i blu vertigo, perché la vertigine. Allora, esatto. Vai Mario. No, i dati che sono usciti soprattutto ieri indicano il nulla. Cioè, praticamente però abbiamo fatturato industriale e ordini industriali di gennaio che sono diminuiti in maniera sensibile. Però, visto che questa cosa bisogna dirla, perché noi siamo un popolo di eroi, santi, navigatori, specialisti, psichiatri, specialisti di navigazione aerea, criminologi, cassazionisti, costituzionali, esatto, assolutamente, non ci si annoia mai in questo paese. I dati di produzione industriale vanno con un movimento abbastanza a dente di sega, nel senso che un mese van su, un mese van giù, quindi in un mese abbiamo esponenti del PD che lanciano l'ANSA che è un trionfo, il mese dopo fischiettano. Però a parte ciò, c'è un modo infallibile per risolvere il problema: si prende la media mobile a tre mesi degli ultimi tre dati. Quindi fatturato industriale e ordini industriali su gennaio nella media degli ultimi tre mesi sono praticamente invariati, perché il fatturato industriale cala dello 0,1% e gli ordini industriali restano lì. Queste sono grandezze nominali. Per quanto riguarda le vendite al dettaglio, stesso discorso, abbiamo un più 0,1%. Questi sono nel trimestre novembre 2014, gennaio 2015, l'indice delle vendite al dettaglio, che è espresso a valori correnti, registra un aumento dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Sono cose. Allora, siccome è una grandezza nominale, siccome in Italia c'è una disinflazione, che anzi forse una deflazione, eccetera, possiamo dire che forse in termini di volumi le cose vanno discretamente meglio. Però questi non sono, punto primo, non sono dati di una ripresa. Punto secondo, se anche fossero dati di una ripresa, sarebbero, come ha detto Draghi, molto correttamente, ma anche una cosa di senso comune, questa è una ripresa congiunturale indotta da una serie di shock positivi. Non è una ripresa strutturale. Quindi la ripresa strutturale in questo paese ancora non si vede. Nei prossimi mesi noi avremo la sostituzione, la stabilizzazione di contratti precari con contratti a tempo indeterminato, secondo il nuovo rito. Questo non determinerà occupazione aggiuntiva, perché per avere occupazione aggiuntiva serve che il livello di attività di questo paese si innalzi al di sopra di valori anemici e asfittici che sono attualmente dell'ordine dello 0,5-0,6-0,8%. Altrimenti sai qual è il paradosso? Che se assumiamo più persone allo stesso livello di produzione vuol dire che diminuisce la produttività. Sì, che questa è una grande tradizione italiana peraltro, è la cosa che esatto, ci ha messo nei guai negli ultimi lustri. Beh, che è uno dei temi che dice Draghi, l'altro Mario, e poi uno ce l'abbiamo qua, quello vero. Insomma, l'altro Mario dice signori, l'aumento della produttività. Siamo oramai alla mancanza di rispetto. Ma è rispetto, è per fortuna, voglio dire, non ha grande onore. Non c'è più rispetto, mi diceva Zucchero. No, fammi dire solo una cosa, che le previsioni di aumento della produttività italiana, che poi è quello che sostiene la crescita strutturale, sono ancora ferme a zero. Cioè, se non interveniamo sulla produttività, veramente, e non basta cambiare i contratti, bisogna intervenire sui processi produttivi, sulle tecnologie, vero Renato? Beh, bisogna intervenire sui modelli organizzativi. Per cambiare la produttività devi cambiare i modelli organizzativi. Il problema vero che abbiamo è che la maggior parte, almeno così, dai dati che avevo visto, dei lavori che abbiamo creato sono a bassissimo livello, quindi non sono lavori che alzano la produttività del paese, perché la produttività del paese la alziamo con lavori di alto, medio, alto livello. E fammi dire, alzando il livello di capitale investito, che è il tema che ci dava prima Mario, sempre il nostro di Mario, dicendo che solo il 10% dell'enorme massa di risparmio degli italiani finisce in realtà in attività produttive. Abbiamo un gap di 250-300 miliardi di sottocapitalizzazione delle imprese, che è fatta anche non soltanto di macchinari da imbullonare, ma è fatta anche di processi, di competenze, di investimenti in soft skill. Sono usciti pochi giorni fa i dati dell'indice digitale degli italiani, siamo come sempre davanti a Grecia e Romania e dietro a tutti gli altri. E la componente più interessante non è la connettività fisica, non è che manca solo i cavi, mancano tutti gli intangibles, cioè tutti gli investimenti in cultura organizzativa e digitale che tengono questo paese al più basso livello di produttività correlata al digitale d'Europa. C'è una cosa da dire. Il ministro Padoan ha fatto una constatazione che, pur se banale, però è molto onesta intellettualmente, perché ha detto sostanzialmente: scordiamoci di rivedere nei prossimi anni una crescita, esatto, come quella antecrisi. Ora, questa frase, che è molto importante, ribadisco, va a onore del ministro Padoan e della sua onestà intellettuale, così vorrei comunicare a tutti quelli che dicono che io ho pregiudizi: prendete questa e mettetevela in tasca. Esatto. Battute a parte, che cosa dobbiamo cambiare, visto che questo paese, quando gli altri crescevano, se vogliamo anche in maniera bollosa, questo paese restava indietro? Adesso che la bolla è scoppiata e la crescita di trend appare molto debole negli anni a venire, come farà questo paese in cui ci troviamo attualmente a rimettersi in pari col gruppone e a riassorbire la disoccupazione? Esatto, questo significa... Questo è un quesito esistenziale dei prossimi anni. Questo significa la distorsione. Avere dei politici, per così dire, capaci di dire un po' di verità sul fatto che ci sono interi settori del pre-2008, perché la conseguenza di quello che dice Padoan, condivido quello che ha detto Mario, che è molto importante, è questo: ci sono interi settori in cui pensare di tornare ai valori e ai volumi del 2008 è oramai impensabile. Questo riguarda per esempio l'edilizia, per la strage di decine di migliaia di piccole imprese, non è che tornano quelle imprese. Uno. Due. Il turismo. Allora, se vediamo il turismo, noi abbiamo fatto nel 2014 50 milioni di turisti dall'estero in Italia. Con quei 50 milioni di turisti estero dall'Italia hanno speso in Italia 34 miliardi di euro. In Spagna la stessa cifra di turisti porta a una spesa di 49 miliardi di euro nel 2014. In Francia, con 5 milioni di turisti esteri in meno, la spesa è di 44 miliardi. Perché? Perché in Italia abbiamo perso nel 2008 26 milioni di turisti italiani, che non crescono di nuovo dal nulla, non torneranno facilmente dal nulla. Abbiamo 22 milioni però di arrivi stranieri in più. Bene, ma non siamo capaci, per una questione dell'offerta italiana, della bassa produttività, del basso valore aggiunto dell'offerta italiana, di farli rimanere più di 3 giorni in media, mentre in Spagna rimangono 5,8 giorni. La produttività collegata sul ritorno a volumi di attività, che non significa più recuperare per interi settori volumi e valori che sono andati via, che hanno avuto una distruzione fisica delle basi produttive, significa riorientare un paese. Questa un'enorme, per così dire, matrice di piano industriale nuovo. Oh, questo è il piano industriale. Il piano industriale è sulle menti e sui cuori, sulle teste, sulle lingue, posso dire. Noi non parliamo manco l'inglese. No? Questi arrivano, magari vogliono stare 4 giorni, chiedono una camera in più in inglese e questi non capiscono. Adesso sto provocando, ma la verità è che, come dire, la sintassi di comunicazione è un pezzo che favorisce la spesa, e noi teniamo il livello medio della nostra ospitalità, e lo vedremo, insomma, girano cartelli sulle traduzioni inglesi per l'Expo che sono veramente, le avete visto? Purtroppo mi aspetto che anche nel 2015 la capacità di ospitalità dell'Italia su Expo purtroppo non sia all'altezza delle aspettative. Devo dire che sono purtroppo pessimista. Commercio ieri ha fatto una stima di più 0,2, quasi più 0,3 per il PIL di quest'anno dal solo Expo. Vediamo cosa vuol dire, dica. Certo, le perplessità sono molto molto forti. In tutto questo invece il governo, proprio questa settimana, a proposito di piano industriale, riprendendo quello che diceva Mario su ma sorpresa, gli italiani investono troppo nei titoli di Stato per effetto appunto degli incentivi stabiliti dal governo, il governo ne ha fatta un'altra, perché dopo aver stangato nel 2014 retroattivamente i fondi pensioni privati e le casse previdenziali professionali, e dopo aver detto a fine anno: ma adesso vi diamo una caramellina, un micro bonus fiscale, se però investirete dove diciamo noi, lo Stato stabilisce lui dove bisogna investire, è uscita una circolare che fa capire quanto lontani siamo da quello che stiamo dicendo noi, perché non solo lo Stato, prima bastona, ti dà un bonus che è veramente micro, 80 milioni in tutto, dicendoti dove devi investire, dopodiché nella circolare si dimentica le sue stesse regole pubbliche su come funziona. No, i soggetti stangati, perché si dimentica che i fondi previdenziali privati non decidono loro dove gestiscono, perché sono obbligati, a farsi gestire da investitori istituzionali, e lo Stato se ne dimentica. E in più aggiunge, naturalmente voi non è che investite e avrete accesso, vi mettete in fila e decideremo secondo la capienza di 80 milioni a chi dare. No, ciascuno di voi dovrà istruire una pratica, aprire un procedimento e si siederà di fronte all'Agenzia delle Entrate, che valuterà davvero il vostro investimento, come, dove e perché. Politica industriale fatta dall'Agenzia delle Entrate in modo indiretto, questa è un'aberrazione assoluta questa. Ma dove vogliamo arrivare di questo passo? Sì, questo no, assolutamente. Ormai è così, è l'Agenzia delle Entrate che decide tutto. Quindi... Esatto, cioè, proprio loro faranno, e poi se non saranno capienti questi 80 milioni, se sarà a rubinetto, sarà rifinanziato. La prossima, le prossime elezioni eleggiamo direttamente il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Invece del Presidente, questo sarebbe una svolta temibile, perché invece l'Agenzia delle Entrate, non ti dimenticare che l'eccesso di dirigenti scelti senza concorso, con contratti a tempo triennale, sono tutte scelte fatte dal fatto che l'Agenzia delle Entrate, mi prendo la responsabilità, mi quereli, no? Ha avuto fin dall'inizio un imprendito così politico e di cordate politiche che la tutto questo meccanismo di numero eccessivo di dirigenti senza concorso, col contratti a tempo, era fatto apposta per incentivare le cordate e l'obbedienza. Questo, perdonate, resta sul campo il fatto che dobbiamo anche modificare gli incentivi dei dirigenti. Gli incentivi non fanno, non bisogna più fare sull'accertato, ma su quello che si incassa davvero. Quindi chi fa accertato, che poi provoca contenzioso, e non deve portare a casa i premi. Nettificato, cioè, quando perdono dovrebbero togliergli il bonus. Comunque, siamo partiti dai dati di questa settimana. Come capite, non abbiamo pregiudizi, però è anche vero che vi diamo forse una mano, se pensate come noi, o altrimenti apprezzate l'onestà, o altrimenti criticateci, però tentiamo di darvi una mano a liberarvi dell'eccesso di propaganda che in questo c'è davvero, perché i numeri restano, ohimè, bassi. E se Draghi dice che la crescita è congiunturale, vuol dire tutta una serie di cose. Della Belva. Eccoci qui, tornate in diretta alle 10.34, primi 12 secondi, compare dei conti della Belva. Caro Alberto. Mario. Renato. E Oscar, cominciamo a occuparci di questa notizia che questa settimana si è manifestata sull'agenda pubblica italiana, poi è stata stralciata per un'iniziativa del Presidente del Consiglio, ma resta, perché la norma deve andare in Parlamento, stiamo parlando del potenziamento delle norme antiterrorismo. Pare che anche Alfano, il Ministro, fosse d'accordo. Di che cosa parliamo? Dell'ipotesi del controllo in remoto di smartphone, computer, portatili di qualunque tipo da parte dello Stato. Sapete che la Procura Nazionale, il Coordinamento Nazionale delle Indagini Antiterrorismo, dopo Charlie Hebdo, il governo italiano ha deciso, io non ero d'accordo, di incardinarlo sull'antimafia. Si inizia a capire perché, perché i magistrati hanno, non volevano un coordinamento per il suo antiterrorismo, lo vogliono associare a tutti i grandi reati associativi, ed ecco che improvvisamente iniziano a uscire ipotesi sul controllo orwelliano. Allora, cerchiamo di capire, ma voi come la pensate? Siete così convinti che per la sicurezza dello Stato, di noi tutti, dobbiamo tutti essere controllati in remoto e che sia una cosa giusta, o è qualcosa che evoca, che evoca? Signor Presidente, io non escluderei la possibilità di conservare un nucleo di esemplari umani. Sarebbe piuttosto facile. In fondo a qualcuna delle nostre miniere più profonde, la radioattività non potrebbe arrivare in fondo ai pozzi migliaia di metri sottoterra, e in qualche settimana si potrebbero approntare le sistemazioni per renderli abitabili. Ma quanto ci dovrebbero stare? Beh, vediamo subito. Cobalto torio G. Io dico che ce la caveremmo con 100 anni. Vuol dire che la gente potrebbe restare là sotto per 100 anni? Senza dubbio, ma in Führer, con i reattori nucleari. Volevo dire, signor Presidente, Con i reattori nucleari potremo disporre di energia per secoli. Col sole artificiale manterremmo la vita vegetale. Potremmo allevare gli animali e macellarli. Forse è il caso di fare un censimento di tutte le miniere adatte che esistono nel paese, ma io ritengo che si possa provvedere lo spazio sufficiente alla vita di parecchie centinaia di migliaia di persone. Allora, come avrete capito, o forse i più anziani di voi, o almeno i più appassionati come me, Stanley Kubrick, questo era lo straordinario Peter Sellers nel Dottor Stranamore, perché è ovvio che il Dottor Stranamore è un po' l'incarnazione di questa roba, di avere insomma i nostri, qualunque aggeggio digitale oramai con lo Stato dentro. Ne parliamo perché secondo noi è un grande problema aperto. Questo riguarda non solo i Trojan di Stato, riguarda oramai l'estensione delle intercettazioni e tutto, cioè c'è un grande problema tra libertà e sicurezza, ed è inutile, bisogna capire e ridefinire in che cosa consiste questo equilibrio. Allora, prima di sentire l'opinione dei compari su questo, iniziamo a sentire alcuni nostri ospiti. Allora, innanzitutto è con noi Andrea Margelletti. Andrea Margelletti è presidente del CESI, Centro Studi Internazionali di Roma, è uno dei più grandi esperti di materia di sicurezza e antiterrorismo. Io lo ringrazio di essere con noi, buongiorno Andrea. Buongiorno Oscar, grazie innanzitutto per l'ospitalità e un saluto ai vostri ascoltatori. Allora, fuori dai denti, secondo te norme di questo tipo sono giustificate alla luce delle legislazioni comparate? Non mi risulta che in Europa ci sia qualcosa di simile nelle legislazioni, c'è stato un discusso, un provvedimento negli Stati Uniti, Patriot Act, eccetera eccetera, ma è giusto, è sbagliato, è preoccupante? I servizi in realtà che cosa fanno al di fuori delle leggi e senza che sia scritto in legge? Già per controllare tutto senza che passi per un magistrato? Dici un po'. Allora, a me non piace sinceramente il concetto di siamo tutti meno liberi per essere tutti più sicuri. Secondo me è una corbelleria di proporzioni stratosferiche. Il presidente Renzi, che è probabilmente il primo presidente del Consiglio 2.0, 3.0 della storia repubblicana, ha studiato quello che è successo negli Stati Uniti, cioè dove il massiccio impiego dell'NSA, cioè dell'Agenzia della Sicurezza Nazionale, lo spionaggio elettronico, tanto per intenderci, anche in ambito interno, ha sovente partorito il topolino, invece ha reso più forti alcune strutture interne di controllo. Io ritengo personalmente che, prima di tutto sono d'accordo con te, deve esserci un coordinamento, ma che antimafia, se terrorismo è terrorismo. Non mischiamo le cose, perché poi nel mare magnum si fa soltanto confusione. E anche qua bisognerebbe parlare seriamente prima o poi di un trade-off tra interessi di parte e senso comune, logica, ecco, ma non è il tema vostro di oggi. Il vero punto è che il terrorismo si nutre essenzialmente sul web, ma stiamo parlando di numeri assolutamente risibili. Bisogna dare un maggiore strumento alla magistratura e alle forze dell'ordine, ma non è nell'entrare nelle borse, nei portafogli, negli smartphone, nei computer di ciascuno di noi che ci metterà al riparo dei lupi solitari o dei foreign fighters o di cellule di questo o quell'altro gruppo terroristico. Quindi mi pare un giudizio netto questo di Andrea Margelletti, ma dal punto di vista europeo come stiamo messi? Siamo in regola a non farlo o c'è qualcuno che ha norme simili? Allora, molti si muovono nell'ambito discrezionale dello Stato e le cose le fanno e non le scrivono. Esatto. Però che non è neanche corretto quello. Però vorrei dire una cosa. Io sono appena tornato dall'India, ero l'unico italiano invitato alla conferenza internazionale sul controterrorismo. C'erano i migliori esperti mondiali di antiterrorismo, ad eccezione del presidente che probabilmente era stato invitato perché avevano sbagliato il numero di telefono. Ma il punto vero è che tutti si sono trovati d'accordo su una questione, che il sistema di sicurezza italiano è molto probabilmente il migliore a livello europeo. La qualità delle nostre forze dell'ordine è mediamente stellare rispetto ad altri paesi, la stessa cosa per i servizi, ma la cosa ancora più importante, ed è il vero passo in avanti, è che i nostri, anche un po' a malincuore o di malavoglia, però i nostri si parlano tra di loro. Cioè noi ci siamo inventati una cosa in Italia che si chiama casa, che è il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, dove i delegati delle forze di polizia e dell'intelligence, naturalmente col coordinamento del DIS, il Dipartimento di Informazione e Sicurezza, si scambiano informazioni e si parlano tra di loro. Quello che in molti altri paesi occidentali è un problema ancora terribilmente irrisolto, come testimoniano poi... È quello che è successo in Francia, esatto, con la vicenda, esatto, cioè di Hebdo, dove la polizia e la gendarmeria li hanno inseguiti per 2 giorni e se li perdevano in continuazione perché entravano in una zona di uno, esattamente, e entravano nella terra di nessuno. Ecco, queste cose da noi non in nessuna maniera avrebbero potuto succedere. Momento, noi dobbiamo ancora fare tanti passi davanti. Io lo dico in ogni occasione, è una follia che nel nostro paese non ci sia un numero solo d'emergenza dove il cittadino possa chiamare. Se è emergenza, è emergenza. Non può mettersi a sfogliare 113, 12, 115, 17 e così via, e non ci sia una sala operativa comune, cittadina, con polizia, carabinieri, guardia di finanza. Questo avevamo sperato nella spending review, ma sai come me che le resistenze dei corpi prevarranno, qua sparisce solo la forestale, forse. È quello che sì, appunto, che già di per sé sono stealth come l'F-35. Esatto. Però il punto vero è quello che dicevo all'inizio. Prima o poi bisognerà affrontare un discorso che va o potentati o buonsenso. Io da genovese lo dico, finché ci sono i soldi uno può anche permettersi di scherzare. Quando le risorse vengono meno, per forza di cosa devi piegare la testa a quello che è la logica. È la logica, ma è anche la logica che ottimizza poi l'efficienza della prevenzione e dei controlli. Quindi da questo punto di vista io segnalo ai nostri ascoltatori, nel ringraziare Andrea Margelletti perché ci ha regalato questi minuti, ma ha da fare, che oggi sul tema della spending review c'è una meravigliosa intervista, non perdetevela, su Repubblica. Federico Fubini fa un'intervista a Gutgeld, che stiamo in attesa di sapere se, quando e come verrà nominato, naturalmente senza costi, come nuovo commissario alla spending review. Ma qua è Roberto Perotti, cioè avete sperato, sono troppo serie. Mettono Gutgeld e Federico Fubini in una pagina gli fa tutta una bella serie di domande su cosa taglierà e cosa taglierà. Io vi invito a leggere le risposte di Gutgeld, perché le risposte di Gutgeld fanno capire che siamo ancora, caro amico, cioè un anno perso. Cioè, domande del tipo: ma ha idee di possibili risparmi per lo Stato centrale? Risposta di Gutgeld: bisognerebbe razionalizzare la presenza territoriale dello Stato. Bisognerebbe, questa è, siamo ancora agli auspici, ce l'avevano i documenti e le proposte precise un anno fa. E dalla lista dei tagli, altra domanda: continuano a mancare le municipalizzate? Risposta di Gutgeld: ah no, noi abbiamo chiesto agli enti locali azionisti di presentare piani di razionalizzazione. Ecco, siamo a caro amico, e non riguarda solo le forze dell'ordine e la sicurezza. Comunque, quello che è evidente è che noi, secondo me, dobbiamo fare una battaglia seria, trasversale, contro il Trojan di Stato. Tu che sei per il digitale dovunque, che dici, caro Alberto? Dico che dobbiamo ricordare una cosa a titolo corretto. Già oggi lo Stato può intercettare le comunicazioni, cioè i transiti di dati. Questa norma avrebbe consentito allo Stato di entrare nei nostri dispositivi come se fosse stata quasi una perquisizione domestica, no? Ora, devo dire che l'evoluzione tecnologica in realtà purtroppo non ci protegge, anche se noi stralciamo questa norma. La verità è che la gran parte di ciò che viene memorizzato sui nostri dispositivi comunque viaggia in rete e comunque è copiato su cloud, quindi ha una, praticamente una copia, una duplicazione nella memoria centralizzata dei nostri server o delle piattaforme. Quindi, se posso purtroppo togliere qualsiasi illusione. E ricordiamo che i server dei gestori telefonici sono obbligati per legge a mantenere per 2 anni le cose, sì, per l'accessibilità delle inchieste. Questo sulle telefonate, se posso dire, i server di Yahoo o quelli di Google, prima che ci mette in mano la nostra magistratura, forse per grazie ci vuole un po' più di tempo. Però posso purtroppo dire che lo stralcio, che è giustissimo, su cui ci siamo battuti grazie anche alla sensibilità di deputati e onorevoli come Stefano Quintarelli, che voglio ricordare che ha fatto una battaglia importante, ma che purtroppo questo non ci salva, perché la tecnologia ormai è così pervasiva che pensare di proteggere la memoria del nostro iPhone o l'hard disk del nostro computer, per quanto sia giusto, sia chiaro, non ci tutela. La verità è che dobbiamo chiedere trasparenza, non soltanto privacy. Dobbiamo chiedere trasparenza, vogliamo sapere cosa stanno controllando, dobbiamo avere il diritto di verificare, dobbiamo mettere checks and balance, perché il binomio libertà e sicurezza si alza, non è un gioco a somma zero, si sposta sempre più in alto, e avere una, un monitoraggio, uno scrutinio, diciamo, diffuso, no? E la logica degli open data è anche questo, è importante, che dobbiamo vedere se il nostro stato è uno stato di polizia o è uno stato a cui affidiamo con delega corretta il controllo della sicurezza. Io ricordo a tutti che il nostro non può essere uno stato di polizia, perché noi abbiamo delegato qualunque indagine di polizia giudiziaria ai pubblici ministeri, e il Trojan di Stato significava avere una norma che consentisse indagini a strascico sul remoto e sul passato di ciascuno alla ricerca di qualunque ipotesi di reato. A questo serve l'estensione antimafia più antiterrorismo. Questa è una roba che a me lascia senza parole. E invece sul delicato tema di come spostare verso l'alto libertà e sicurezza, adesso poi ne parliamo con il prossimo ospite, intanto ci sentiamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta, 10:49, 18 secondi ai conti della belva. Stiamo parlando di questa norma stralciata, ma che continuerà ad aleggiare nel provvedimento antiterrorismo del Trojan di Stato su PC e smartphone di noi tutti. E iniziamo a sentire un po', cari compari, come gli SMS ai nostri ascoltatori. Mario. Ce ne sono un paio che sono come se stessero dialogando tra loro, ovviamente. Uno dice: ci vuole sicurezza, se per averla ci vogliono intercettazioni a 360 gradi, ben vengano. Chi ha qualcosa da nascondere si attacca al tram. Il nostro Stato è così carente in fatto di ordine pubblico che personalmente spero che venga presto approvato. Ora, premesso che bisognerebbe anche argomentare dove starebbe questo essere carenti in fatto di ordine pubblico, però c'è un altro SMS che implicitamente risponde a questo e dice: controllo antiterrorismo, idea spaventosa anche per chi non ha nulla da nascondere, pensate all'utilizzo che potrebbero farne i nostri burocrati. Questi due SMS sono la tesi e l'antitesi, e mi sembra abbastanza interessante. Io personalmente, inutile dire da che parte sto, ma noto che c'è una robusta fetta dell'opinione pubblica, che poi sarebbero quelli dell'intercettateci tutti, che quello nasceva per precisi orientamenti ideologici, questi altri probabilmente più per paura e quant'altro, per cui sono sentimenti più umani, meno politicizzati tra virgolette. Però cioè, non funziona però così, c'è questo desiderio proprio che di intrusività, esatto, nella propria esistenza, che personalmente mi inquieta. Di fondo, perché io penso che il, tra virgolette, il, io lo chiamo giustizialismo, non si offenda chi la pensa così, di chi è disposto appunto a sostenere sia solo colui che ha qualcosa da temere, che dice di no alla totale trasparenza dello Stato, data allo Stato da parte del cittadino, io lo considero un riflesso giustizialista, però secondo me è diventato un riflesso trasversale molto presente nella società. Tu che dici, Renato? Ma poi il problema, secondo me il problema grosso è come è fatta la giustizia italiana, nel senso che negli ultimi anni abbiamo visto troppi PM che sono poi quelli che hanno in mano tutta la parte diciamo giustizialista, chiamiamola così, che allora poi è sempre il solito discorso, non bisogna generalizzare, però in moltissimi casi abbiamo visto quanto per andare sui giornali, per fare il botto, perché avevano in mente che quello lì fosse un delinquente, per mille altri motivi, hanno fatto un utilizzo della giustizia molto distorto. Quindi l'obbligatorietà dell'azione penale è diventata la libertà di vedere se quello lì aveva fatto qualcosa. E lo so, questo è purtroppo un tema delicatissimo dei vent'anni italiani. Allora, perché... io non ho niente da nascondere, però cioè, no, io ritengo che sia intollerabile sentire l'argomento chi non ha niente da nascondere, nel senso che io sono convinto che esiste come diritto naturale una sfera intangibile dell'individuo privata che non ha a che vedere con i reati, nella quale il mio sacrosanto diritto naturale è pretendere che lo Stato venga a violarla solo in presenza di un mandato, un'ipotesi precisa, qualcosa di concreto da appurare, perché altrimenti non ci siamo. Ripeto, questo è un paese nel quale, a fronte della Gran Bretagna, dove la Corte Suprema dice che vanno pubblicate le lettere del principe Carlo ai ministri, la RAI non ci dice chi sono i dirigenti che prendono ma quanto. Ma lì c'è la privacy. Ecco, allora. No, capito, allora se c'è la privacy ai dirigenti RAI, ci deve essere la privacy anche per noi, okay. Altrimenti è asimmetrica, perdonatemi. Ripeto, la Gran Bretagna non mette limiti alle lettere del principe Carlo. Qua esistono solo i limiti per la privacy di Stato. Torniamo al tema della trasparenza come vera garanzia. Esatto. No? E anche perché gli italiani si difendono come fanno? Sostanzialmente rimanendo analogici. Ricordo che abbiamo il tasso più basso d'Europa di uso di carte di credito, siamo quelli che si fanno 30 minuti di coda pur di non usare il telepass, ok? Perché poi gli italiani, questa diffidenza profonda che si vede nelle statistiche, è un po' la loro difesa, la paura di essere spiati, no? Difesa che poi diventa paradossalmente richiesta di maggiore intrusività. E qui c'è un po' di schizofrenia da questo punto di vista in questo paese. Però per essere chiari, in Italia soldi attraverso i quali Coubali e gli altri Charlie Hebdo in Francia hanno fatto le acquisizioni di armi, che è passato attraverso normali operazioni bancarie, in Italia noi abbiamo già la tracciabilità data allo Stato di qualunque operazione bancaria che può essere richiesta all'intermediario. L'intermediario glielo deve dare seduta stante, quindi noi siamo già ipertracciabili come pochi altri nel nostro paese. Però sentiamo un altro ospite, l'avvocato Guido Scorza, che è docente di diritto delle nuove tecnologie, è giornalista, è blogger, si batte dal punto di vista della dottrina e della giurisprudenza nel nostro paese su questo delicatissimo confine che c'è tra la privacy e le esigenze dello Stato e pubbliche di sicurezza. Buongiorno e grazie di essere con noi, avvocato Scorza. Buongiorno, grazie per l'invito. Lei che dice innanzitutto dello stralcio? Crede che la norma riciccerà? Che ne pensa in concreto? Come si innalza, diceva Carlo Alberto, il confine della libertà e sicurezza insieme, perché esiste anche una tutela della sicurezza ma tentando di salvaguardare una sfera di intima per diritto naturale privacy dell'individuo? Temo naturalmente che la norma riciccerà, perché risponde a una tentazione assolutamente ricorrente del poliziotto, dello Stato poliziotto, perché qui di questo evidentemente discutiamo, che ragiona in maniera tra l'altro poco 2.0 e che dice io accumulo informazioni, poi si vedrà se quelle informazioni mi servono o non mi servono. Penso quello che ho scritto a ridosso della idea che fosse approvata questa norma, e cioè che non possiamo accettare l'idea di barattare la privacy dei cittadini con una semplice aspettativa di sicurezza, perché qui tra l'altro, come dire, non è che si dica che se tutti i cittadini italiani accettassero l'installazione di un Trojan di Stato poi saremmo davvero un paese più sicuro. Oltre a raccogliere le informazioni, poi bisogna saperle analizzare, e soprattutto quello che penso è quello che viene fuori anche dagli SMS di molti ascoltatori, cioè qui c'è un enorme problema culturale. Entra il valore della sicurezza pubblica, evidentemente, come dire, è naturale, è in questo momento appartiene alla più. Ed eccoci qua, tornate in diretta alle 11.07, primi 39 secondi, compare dei conti della Belva. Carlo Alberto. Mario. Renato. E Oscar Giannino. Passiamo adesso alla riforma della RAI, varata ieri dal Consiglio dei Ministri il venerdì scorso, di ieri, perché c'è stata una sovrapposizione sul fatto che anche per la riforma della RAI si sovrappongono i testi, e quindi da questo punto di vista non si sa mai più a che cosa fare riferimento tra testi messi in consultazione, annunci e così via. Allora, il testo di ieri varato dal Consiglio dei Ministri in effetti è diverso anche da quello di cui si era parlato la settimana scorsa, ma in buona sostanza, sia pure con varianti oggi indicate da alcuni giornali italiani, è una riforma della RAI non proprio epocale, perché si tratta di variazioni al margine sulle elezioni da parte del Parlamento e della politica, del totale dei numeri del Consiglio di Amministrazione, che scende a 7, di questi 7 4 sarebbero dal Parlamento, 2 sarebbero su indicazione del governo, almeno questo dice il Corriere della Sera. La Repubblica dice invece che sarebbe solo non l'indicazione secca ma sentito il governo, invece dovrebbe essere l'indicazione secca, e tra questi due di indicazione secca del governo c'è un capo azienda, un amministratore delegato con poteri molto forti rispetto al direttore generale. Questo il succo, quindi non una ridefinizione del servizio pubblico e del cosiddetto contratto di concessione in vista del nuovo contratto di concessione, non una scelta esplicita sul canone, anzi il Presidente del Consiglio ha detto che lui sarebbe per l'abolizione, ma il sottosegretario a fianco ha detto a lui che lui invece è per metterlo in bolletta elettrica. Questo per dirvi com'è aperta a una scelta precisa questa riforma, e su questo vi chiediamo come la pensate, ma prima di chiedervelo sentiamo in sintesi che cosa ha detto ieri il Presidente del Consiglio Renzi dopo il Consiglio dei Ministri. Le parole d'ordine sono: riduzione del Consiglio d'amministrazione da 9 a 7, il CDA fa il CDA, la Commissione parlamentare vigila e controlla, chi gestisce l'azienda senza dover costantemente prendere decisioni sulla base degli equilibri politici partitici, dei bilancini delle singole correnti dei partiti. Questo per me significa dire fuori i partiti dalla gestione della RAI. Chi guida l'azienda deve essere messo nelle condizioni di farlo rispettando le regole, gli indirizzi parlamentari e le indicazioni dell'azionista. Naturalmente alla Commissione parlamentare di vigilanza viene mantenuto e anche in qualche modo rafforzato il potere di controllo su tutto ciò che è servizio pubblico. Ma servizio pubblico non è mettere bocca sui palinsesti. In questo dibattito c'è, e ho finito, l'idea di riflettere sul modello del canone. Io appartengo a una cultura che vorrebbe in prospettiva eliminare il canone e lasciare la fiscalità generale a pagare il servizio pubblico radiotelevisivo. Noi vogliamo far sì che non ci sia, come è accaduto troppo spesso in passato, un'evasione così allucinante del canone per cui i cittadini onesti lo pagano e altri rifiutano di farlo. Eccoci qua, questo è quello che ha detto ieri il Presidente del Consiglio. Rapido giro tra noi, ragazzi, che dite? Torno a ribadire che questo paese non ha bisogno della tutela dello Stato per produrre cultura, e soprattutto quando neanche produce cultura, ma produce solo intrattenimento. Qui siamo di fronte non a una riforma della RAI, ma a un presidio della governance dell'azienda per sostanzialmente mettere le mani sulle decisioni fondamentali. Mi spiace, ma è una bruttissima pagina di questo governo ed è una grandissima delusione, anche perché confesso che ho partecipato a tanti dibattiti in questi ultimi mesi, anni, perché la Leopolda sono anni che discute di RAI, e vedere che la montagna renziana partorisce, ma che dico, un topolino, una faina per infilarsi nei tunnel di controllo dell'azienda, vendendosi anche il piatto di lenticchie del posto in consiglio di amministrazione per i sindacati, per i dipendenti. Uno dei sette, sarebbe la grande novità. È un'operazione francamente molto molto deludente. Io sono d'accordo, mi pare che sia un aumento della centralizzazione di tutta la governance in capo all'esecutivo. Ad esempio questo amministratore delegato molto potente in termini di deleghe e in termini di capacità di spesa. Ora, io capisco l'esigenza di evitare delle forme di assemblearismo lottizzatorio e quant'altro. Probabilmente questo guida molte delle decisioni di questo governo, no? Cioè di dire: noi siamo al governo ora, se volete ci mandate a casa la prima occasione utile, e chi viene dopo di noi prende il potere con scarsa entità di pesi e sovrappesi, e dopodiché ci vediamo nelle urne. Esatto. Quindi credo che il discorso sia questo. Quindi, se posso, Mario, passiamo da una TV di Stato a una TV di governo. E francamente, secondo me, è peggio. Beh, è un ritorno, no? Per certi aspetti, anche un ritorno, no? A numerose riforme addietro, quando c'era più centralizzato in capo al governo, dopodiché è stato aumentato il peso specifico del Parlamento. A fare il paragone tra Renzi e Fanfani, torniamo a Bernabei, che diceva che tutte le sere andava a Fanfani. Naturalmente, stiamo eccedendo, non lo so, però certo la delusione, ragazzi, è molto forte. Io vorrei una discussione seria su cos'è il servizio pubblico. Sono aperto a chi dice che il servizio pubblico deve restare, ma allora mi deve dire come si può fare, se c'è uno standard di servizio che si può mettere a gara, con una gara vera aperta ai players di settori italiani e internazionali, e naturalmente anche alla RAI. Metto in conto che magari lo vincerebbe la RAI all'inizio, però allora bisogna decidere se si fa senza il canone o senza la pubblicità. In Spagna lo fanno, prima hanno deciso di levare il canone, poi la pubblicità, e questo li ha fatti ridefinire lo standard di servizio. Della BBC abbiamo parlato la volta scorsa. Qui io non vedo niente di tutto questo, è un'illusione. Renato, che dici? Ma qua c'è l'aziendalismo mal riposto, secondo me. Nel senso che allora, le aziende funzionano se c'è una persona che comanda, ma le aziende hanno delle catene di per arrivare al comando, e hanno degli azionisti che quello lì lo fanno saltare in due minuti. In qualcosa che è pubblico non funziona che c'è uno che decide tutto per tutti. Cioè non puoi fare l'amministratore delegato da solo con potere illimitato in qualcosa che... No, ma non sarà illimitato, perché poi si concede anche ai partiti e alla parte del PD che non la pensa come lui, perché questo è il vero problema nel ripensamento dello schema della riforma, a cominciare poi dal canone, come si dice, gli consente in realtà una conferma anche del vecchio schema del potere del Parlamento, della Commissione di Vigilanza, perché oggi leggete le interviste di Gasparri, cari ascoltatori. Vedete che Gasparri sorride dicendo: ma questo è un micro intervento sullo schema mio, non è che sia un grande ribaltamento della famosa legge Gasparri, però questa è l'opinione nostra. Adesso, subito dopo l'interruzione, abbiamo due ospiti esterni ai quali sentiamo opinioni diverse dalle nostre, perché non siamo i depositari della verità. E quindi, dopo la pausa, abbiamo con noi Vinicio Peruffo, che è deputato del PD, capogruppo in commissione di vigilanza della RAI, e Vittorio Di Trapani, segretario dell'USIGRAI, visto che qui una delle grandi novità è proprio il posto in consiglio di amministrazione per in rappresentanza dei dipendenti. Dopo la pausa, subito torniamo con loro. Della Belva. Eccoci qui tornati in diretta con i compari Carlo Alberto, Mario, Renato, Oscar, a tema la nuova versione dell'intervento su Rai da parte del governo annunciato ieri. Abbiamo sentito il Presidente del Consiglio, vi abbiamo spiegato un po' in cosa consiste questo refitting del Consiglio d'amministrazione, e io chiedo cosa ne pensano, se siamo naturalmente, e perché, in che punti troppo critici noi a essere un po' delusi. Cominciamo con Vinicio Peruffo, PD, capogruppo in Commissione Vigilanza della Rai. Intanto buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Ho sentito le considerazioni che stavate facendo, tutte molto critiche, devo dire, e ci sta, va bene. La prima considerazione che invece vi voglio sottoporre è questo, che ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso un percorso, innanzitutto, fatto di un disegno di legge di riforma della governance, perché entro luglio o cambi i meccanismi di nomine di governance, cioè quella parte della legge Gasparri, o altrimenti è con la legge Gasparri che devi nominare i vertici, quello che tutti quanti mi sembra si è sempre detto che bisognava evitare, di qui l'urgenza. La seconda cosa che ha detto il governo, il secondo tassello, è che bisogna riformare profondamente il canone per combattere l'evasione, evidentemente, che è la più alta in Europa, ma soprattutto per dargli elementi anche di maggiore giustizia nei confronti di chi deve pagare in termini di pesi che sopportano gli italiani con diverso reddito. E il terzo elemento è quello di aprire la discussione in vista del rinnovo della concessione, perché l'anno prossimo, a primavera, scade la concessione ventennale Stato RAI. Si tratta di discutere da subito, e su questo sono d'accordo con lei Giannino, su che cosa vuol dire servizio pubblico. Che cosa vuol dire servizio pubblico dopo il passaggio dall'analogico al digitale, quindi in un mondo completamente diverso. Questo è il documento che è sì sintetico, quello che è stato postato sul sito di Palazzo Chigi, però ha questi contenuti, è perché l'intervento del governo ha questo respiro, fatto di tre tappe. Ma al di là delle tappe, che in questo che ha ricordato è corretto, il nocciolo di fondo di questo giro di vite a favore del governo sull'indicazione del management, e sappiamo che cosa vuol dire, c'è tutta una ricaduta, cioè la storia della RAI lo dimostra, non è che dobbiamo far finta di non saperlo. Secondo lei, come significato politico dell'intervento sul CDA dopo tanti anni e tante parole alle Leopolda di Renzi sul fatto che bisognava separare la RAI dai partiti, espressione sintetica che può voler dire tante cose, ma insomma, secondo lei accentrare l'indirizzo nelle mani del governo non ci fa tornare indietro ai tempi del DC? Prima domanda: è necessario, utile avvicinare la RAI al codice civile, cioè alla normalità delle aziende di quelle dimensioni? È necessario, utile, superare la figura che finora c'è stato di un direttore generale che per ogni scelta deve trovarsi di volta in volta una maggioranza all'interno di un CDA eletto dalla commissione di vigilanza? Lo sa che con me, con noi sfonda una porta aperta. Il problema è con chi lo nomina, perché se io voglio separarlo dalla politica. È designato dall'azionista al Ministero del Tesoro e poi deve essere votato dalla CDA, che resta a maggioranza scelto dai partiti in Parlamento e due dal governo. E a quel punto. Il ruolo del Parlamento, guardi, è un'opinione non solo nostra, ma un'opinione anche delle sentenze della Corte Costituzionale. Sì. Quindi che la maggioranza del CDA venga nominato dal Parlamento, questo ce lo dice la Corte Costituzionale sul ruolo del Parlamento, ed è corretto. Quello che io intendevo sottolineare è questo, che oggi c'è un direttore generale che è designato dal governo e che di volta in volta deve, in un consiglio d'amministrazione nominato dalla commissione di vigilanza, trovare maggioranza a sostegno dei propri provvedimenti. Quindi non è la figura apicale del manager, non è il capo azienda, non assomiglia a quello che è previsto dal codice civile. No, no, ma su questo non c'è dubbio. Però è solo per dire facciamo. Che, perdoni onorevole Peruffo, prego, sappiamo, prego, sappiamo che le sentenze della Corte, nel dire la nomina, che c'è un servizio pubblico, il Parlamento, sono utilizzate, mi spiace, è così, dalla politica, per dire bene, quindi li scegliamo noi perché lo dice la Corte. La nomina, il Parlamento, gli organi politici, in coerenza, finché c'è un servizio pubblico, all'idea di servizio pubblico, può avvenire anche come semplice conferma o diniego, diciamo così, di fronte a procedure di selezione e di indicazione fatte da altri non politici. Questo è il punto di fondo, che in altri servizi pubblici esiste, come lei sa meglio di me, che addirittura esiste in tipi molto garantisti, secondo me, di governance di grandi giornali privati all'estero, per esempio nella FAZ, la Frankfurter Allgemeine, la proprietà in termini, non sceglie lei i direttori perché c'è un filtro nell'indicazione dei direttori da parte di una fondazione e il proprietario può dire solo sì o no. Quindi da questo punto di vista la sentenza della Corte non prescrive che siano i partiti percorrenti in Parlamento o per coalizioni, perché con 4 sarà per coalizioni e non più per correnti. Mi sbaglio, Peruffo, secondo lei? Ma guardi, io prima dicevo avvicinare l'azienda al codice civile. Da questo punto di vista sono due le strade: un sistema monistico, quello a cui certo. Si guarda con la proposta del governo, un sistema duale, che secondo me poteva avere delle caratteristiche molto più vicine alle considerazioni che sta facendo lei. Sì, ha un modello, diciamo, tedesco. Si poteva ampliare la gamma degli stakeholder. Ma il servizio pubblico, esiste la possibilità, secondo lei, di ridefinirlo di qua la nuova concessione, di aprire un confronto vero su che senso abbia un'offerta che è tale quale a quella della televisione commerciale, però con l'ircocervo di avere canone più pubblicità. Altri paesi hanno fatto delle scelte su questo. Infatti su questo abbiamo un'opinione diversa, perché lei prima parlava di bando di gara per il servizio pubblico, che era per esempio l'idea anche dell'ex vice ministro Catricalà, che ne aveva parlato apertamente, cioè diceva scade la concessione ventennale, facciamo un bando di gara. Io invece prima ho parlato di rinnovo della concessione, perché io penso che da questo punto di vista il soggetto più adatto sia la RAI, ma soprattutto io penso che da qui alla scadenza e quindi al rinnovo dovremmo fare davvero come in Inghilterra. Lì quando rinnovano il Royal Charter Act, cioè la concessione tra Stato e BBC, c'è un percorso di ascolto, di consultazione, di confronto su quali devono essere gli obiettivi di servizio pubblico con tutti gli stakeholder, con il Parlamento, con gli ascoltatori diversamente organizzati, con l'università, con la società civile. Ecco, secondo me serve esattamente questo, come obiettivo l'anticipo della concessione a cui arrivare con un percorso come quello della Royal Charter Act. Però devo dissentire, il percorso renziano sulla RAI passa dalla trasformazione di una azienda pubblica in una agenzia governativa di informazione. Tant'è vero che la sua idea di abolire il canone è coerente con tutto questo. Lui non vuole un'azienda, vuole la voce del governo per educare gli italiani. Fiscalità generale. E anche questa operazione va in quella direzione. Sia chiaro che, posto che non sono d'accordo sul rinnovo così, perché lo dice lei o il Partito Democratico o chiunque, no? Secondo me, se poniamo il problema di un contenuto di servizio pubblico, lo faccia il migliore a minor costo. Ciò detto, c'è un che di malefico ed intelligente nell'idea renziana di trasformare la RAI da azienda pubblica che combatte con la mano sinistra, ed è giusto che, come dire, venga consentito a un'azienda di agire correttamente, ma non è un'azienda, è nella testa renziana, no? È forse un'agenzia di governo per dire, se io sono un governo di un paese voglio poterla dire la mia, chissà come mai il governo degli Stati Uniti questa cosa non ce l'ha, ma fa niente, ok? E quindi lo paga la fiscalità generale, tolgo dal mercato questo ibrido strano che si chiama azienda. Questa secondo me è la lettura della testa renziana, non so cosa ne pensa lei. No, non so se lei è in grado di fare interpretazioni autentiche di Renzi, io non sono in grado, io posso dirle quali sono state le conversazioni che abbiamo fatto in luoghi di partito, in sedi parlamentari con con Renzi, quindi ho ben presente che cosa ha detto lì il Presidente del Consiglio, quali sono stati i momenti di confronto. Ecco, io posso fare un'interpretazione autentica al massimo del mio pensiero, qui là non riesco non sono d'accordo su questa idea. Ma lei ammetterà per quanto lei avrebbe titolo per rispondere, mi dicendo no, ma non è a me che devi fare la domanda, che da quello che Renzi ci aveva fatto sentire alle Leopolde anni fa sulla Rai a questo punto di caduta, c'è una differenza molto ampia. Io capisco il realismo quando si governa rispetto a quando si è liberi di dire la propria, però santo è Dio. Allora io su questo mi prendo una mia responsabilità, sì. Il sedicesimo, per l'amor di Dio, il trentaduesimo, come si vuol fare. Però io sono tra quanti che nel PD ha insistito perché ci fosse un intervento subito del governo rispetto alla governance, perché io continuo a pensare che noi non possiamo rinnovare i vertici Rai con la Gazzetta. Sono d'accordo. Perché io credo che ci sia bisogno di vertici che abbiano una spinta data da un meccanismo diverso, una riconoscibilità diversa, e quindi vertici che concorrono nel confronto con il governo a ripensare completamente il servizio pubblico. Perché il banco di prova vero è il rinnovo della concessione. Il governo avrebbe potuto concentrarsi su questo e magari dire semplicemente: noi abbiamo un'idea complessiva di riforma dell'azienda, di rinnovo della concessione in termini diversi, però intanto nominiamo con la Gaspar. Il governo poteva fare anche quello, io invece mi assumo la responsabilità. No, lei è stato tra quelli che hanno spinto e adesso mi rendo conto che ci si concentra su questo. Renzi ha capito che se avesse usato la Gaspar si esponeva a ironie e critiche pesantissime. Per me quello che conta di più però è il punto di fondo, perché se noi modifichiamo così poco il potere della politica e non ridiscutiamo il servizio pubblico, non apriamo un problema vero. A che cosa deve essere commisurato l'accesso alle risorse di mercato pubblicitario e perché è giustificato un canone? Se non partiamo da questo, io temo che i tempi oggi del cambiare in fretta il meccanismo di nomina della Gaspari, per quello che ha detto lei, e lo capisco politicamente, domani, perché sarà sempre più vicino il tempo del, come dice lei, rinnovo del contratto di concessione, non della gara, farà restare tragicamente ancora una volta chiunque si illude che si possano fare dei discorsi di riforme di fondo nel nostro paese. Questo dal mio punto di vista è un po' un deluso. Ma sentiamo anche, visto che una delle novità vere è il consigliere d'amministrazione, il settimo espressione dei dipendenti della RAI, il punto di vista del segretario dell'USIGRAI, Vittorio Di Trapani. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Che pensa? Allora, sicuramente l'elemento del dipendente in CDA è un fatto positivo, una richiesta che noi facciamo da tempo, ma sinceramente non ci basta per dire che ciò che è emerso ieri al Consiglio dei Ministri sia soddisfacente, tutt'altro. Devo dire che io personalmente sono deluso, ma non rispetto alle mie aspettative, sono deluso rispetto a quello che il Presidente del Consiglio ha detto nei mesi scorsi. Più volte ha ripetuto: fuori partiti dalla RAI, prenderemo la RAI per restituirle ai cittadini. Quindi noi ci aspettavamo esattamente questo, ci aspettavamo la rottamazione della legge Gasparri e quindi del controllo dei partiti ma anche dei governi dal controllo della RAI. Purtroppo quello che è emerso non va in questa direzione. Beh, io devo ringraziare l'opinione secca e chiara espressa da Vittorio Di Trapani, il segretario dell'USIGRAI. Sentiamo qualche nostro ascoltatore sui temi che abbiamo fin qui trattato. Cominciamo con Cristina da Genova. Cristina, prego. Salve, ciao. Salve. Mi riferisco anche a quello che ha detto il signore precedente, no? Del resto, questo, vabbè, noi tutti, penso, della nostra generazione abbiamo avuto degli ideali molto forti, abbiamo seguito i nostri partiti con fedeltà, eccetera. Mi sono fatta capire, no? Adesso, ma quel tempo è finito, ecco, per così dire. Sì, secondo me ci troviamo in un offuscamento mortale quasi, sembra che tutto vada a naufrago. No, ma questo, Cristina, se la sentisse Renzi la scomunicherebbe. Non confonda l'offuscamento con il fatto che Renzi è solo in campo. Il fatto che è solo in campo poi non è colpa sua, è colpa deriva dal fatto che non ci sono altre squadre in campo. È chiaro che essere solo in campo talvolta si può essere anche un po' presi dalle vertigini. Dice: ma fai molti gol. Beh, te credo, giochi da solo, questo è il piccolo problema. Sentiamo Alberto da Milano. Alberto. Buongiorno Giannino. Buongiorno. Volevo parlare sul DL antiterrorismo, sì, sì. Quello dell'intercettazione. Io devo dire, nel frattempo siamo stati bersagliati da un'infinità di sms che ci ha molto colpito, di favorevolissimi al Trojan di Stato, che ci accusa di essere, come sempre, difensori degli evasori e di non capire che solo chi non ha nulla da temere può essere contrario al fatto che lo Stato mi entri dentro. Lei come la pensa? Immaginavo, non avevo dubbi. Allora, io vorrei rispondere a quelli che hanno sempre la domanda brillante: io non ho niente da nascondere, e tu? Io dico, va bene, d'accordo, controllatemi pure, però se io non ho niente da nascondere, neanche lo Stato deve avere niente da nascondere, quindi io devo essere liberissimo di controllare il carabiniere, il ministro, il sindaco, chi mi pare, quando mi pare, allo stesso modo, altrimenti sono loro ad avere qualcosa da nascondere. Ecco. Direi di sì, perché ecco. Noi una legge che codifichi i diritti del pieno accesso trasparente ai dati della pubblica amministrazione come quella americana non ce l'abbiamo, è così, purtroppo è così. Io ringrazio Alberto, perché siamo in minoranza però, perché siamo stati veramente travolti da sms che ci dicono che noi siamo veramente un circo di così difensori dell'indifendibile, dagli evasori ai terroristi. Sì. Io sono amaramente convinto che questo esprima un problema culturale nel nostro paese. Io rispetto l'opinione di tutti. Mario, tu che dici? Ma sì, è lo stesso. Cioè, credo che noi siamo amici degli evasori fiscali, dei terroristi. Poi c'è anche uno che ha scritto che non abbia... Carlo Alberto, non hai ancora detto niente a favore di Berlusconi e De Benedetti. Stiamo diventando un test psichiatrico noi al sabato mattina del disagio che c'è nella popolazione di questo paese. In questo assolviamo una funzione sociale. Siamo un bene pubblico. Esatto. Rodotà, tutelaci, siamo un bene pubblico. Esatto, svolgiamo esatto. Una funzione psichiatrica. Detto questo, chiudiamo anche questo sipario che abbiamo dedicato alla RAI. Abbiamo sentito prima di Pelufo, prima di Lusigrai. Però a Vittorio Di Trapani un commentino sul fatto che i sindacalisti fanno non si può chiedere. No, come non si può chiedere? Certo, lo chiediamo, lo stavi chiedendo. Va bene. La prossima volta, dai Oscar. Ma è una radio di improvvisatori questa qua. Va bene, salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti e cambiamo pagina. I conti della Belva. Eccoci qui tornati in diretta e dobbiamo sospendere la nostra programmazione ordinaria perché c'è una breaking news, un'ultima notizia gravissima, gravissima. Mario Seminario è entrato praticamente in stato semiagonico, ha un collasso, ha le convulsioni, perché dovete sapere che nel frattempo, in questi minuti, il governo ha aggiornato le stime di crescita del 2015, confermata la travolgente ripresa italiana che soffia nelle vele grazie al nuovo governo, anche la primavera diventerà estate da oggi. No, guardate, davvero c'è stato l'aggiornamento. Mario Seminario, dacci tutte le cifre della ripresa che esplosa come i fiori a primavera. Il ministro Boschi pare avere suggerito che nel DEF che verrà presentato entro il 10 aprile la stima di crescita del PIL italiano 2015 viene rivista al rialzo da più 0,6 a più 0,7. Più 0,7! Mario Seminario non ha letto bene, 007, perché questa è la crescita del Capitan Ganassa. Capitan Ganassa l'ha inventato Mario Seminario. Lo dico per gli agenti della Polizia di Stato che in servizio di polizia giudiziaria ci stanno ascoltando. Mario Seminario è copy, ma io voglio andare in carcere con lui quando verrete. Ma io verrete. Non ho niente da temere, quindi l'ho inventato io. Esatto. Adesso Capitan Ganassa, capito? 0,7%, da 0,6 a 0,7. Scusate. Vabbè, dai, si comincia con poco. Ve lo poco diciamo alla volta, con ironia. Si finisce con nulla. Ma purtroppo. Andiamo a una cosa più seria. Uno dei pezzi del nuovo piano industriale dell'Italia per crescere di più e magari fare più permanenza di turisti, di quei 50 milioni di turisti esteri che spendono però molto meno di quanto spendano in Spagna, è il nostro patrimonio culturale, ambientale, museale. Siamo, lo ripetiamo sempre, un paese ricchissimo e comincio da un libro che è uscito pochi giorni fa, cui vi invito alla lettura, che a me non è piaciuto per niente perché non condivido la tesi, che è l'autore, che si chiama Tommaso Montanari, con una M, Tommaso Montanari, nel suo saggio che si chiama Privati del patrimonio illustra. È la tesi secondo la quale il grande patrimonio straordinario dei nostri beni culturali, metà, eccetera, eccetera, è insidiato da un feroce, potente, temibile, subdolo attacco dei privati. che lo vogliono mercificare, che lo vogliono rendere fruibile. Questa è la grande scusa, cioè la divulgazione, l'aumento della fruibilità da parte dei giovani, dei turisti e così via, ma perché ci vogliono fare soldi propri. E questa roba va sventata, perché quella è la vera grande minaccia che incombe sul nostro patrimonio. La religione del mercato. Io la penso diversamente dal professor Tommaso Montanari, che è un accademico, insegna all'università. Io mi levo il cappello, mi prostro, credo che questa tesi, che è anche molto forte nell'amministrazione centrale e periferica dei beni culturali, sia un'impostazione sbagliata. Senza discutere il titolo proprietario, perché è ovvio che il patrimonio dello Stato resta allo Stato, la cosa più intelligente secondo me è quella di incentivare fiscalmente ed estendere, al di là dell'incentivo fiscale, le possibilità di grandi buone pratiche per cui i privati possano, vogliano, perseguendo anche un proprio interesse, anche però adoperarsi per rendere più fruibile, più accessibile, più conosciuto, più apprezzato, più amato il nostro patrimonio. Credo che quello bisognerebbe fare. E allora vi abbiamo proposto oggi un esempio concreto che è già stato fatto in piccolo, ma in piccolo direi anche in grande, esattamente di una cosa di questo genere, che avviene perché una restauratrice, anzi una micro azienda, una piccola azienda di restauro privato, fatta da straordinarie professioniste che hanno avuto negli anni, evidentemente per la loro valentia professionale, gli incarichi di restauro di opere straordinarie, da Caravaggio a scendere, quindi non si mette in discussione il valore pubblico e professionale di quello che fanno. Loro hanno preso l'iniziativa di portare il restauro di una grande opera di Luca Giordano in un liceo di Roma, naturalmente nel pieno rispetto delle procedure pubbliche, nel pieno rispetto. Ci faremo sentire in cosa è consistita questa cosa. Allora, questo piccolo esempio, che però è un grande esempio di come si potrebbe fare, e il mio invito è a tutti i dirigenti scolastici in ascolto, a tutti i provveditori in ascolto, ad ascoltare questa storia, ad andare a vedere il sito che si chiama Brave Art, non quello ovviamente con l'H del film della secessione scozzese, ma Brave Art, a vedere tutto quello che trovate sul sito dell'esperienza, di come è avvenuta, del coinvolgimento dei giovani, di che cosa i ragazzi del liceo hanno prodotto, stimolati dall'esperienza di vedere giorno dopo giorno il restauro che avanzava con loro lì. E mi sembra giusto parlare di una buona pratica di questo tipo. Abbiamo con noi per parlarne Valeria Merlini, che è appunto una delle restauratrici grazie alle quali quest'opera di Luca Giordano è andata a essere restaurata nel liceo Visconti di Roma. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi, grazie dell'invito innanzitutto. E a voi abbiamo anche un paio di ragazzi che ci raccontano che cosa diavolo è stato per loro questa esperienza, cioè Valerio Navarra ed Enrico Braguglia. Ci siete? Sì, ci siamo. Posso cominciare da voi ragazzi? Valerio, per te che cosa è stata questa roba qua? Te l'aspettavi, l'immaginavi possibile? Però vai al dunque anche con critiche, cioè se c'è qualcosa che non ti ha convinto, di. Ma diciamo di no, perché è stata più che altro una sorpresa quando ci è stato comunicato che, diciamo, una tela del 600 sarebbe venuta a scuola da noi e poter essere vista dal vivo, così da vicino, e vederla, vedere appunto persone che la restauravano. Tutto questo, diciamo, ha sorpreso la scuola, sinceramente. E il tutto è partito da quando abbiamo visto appunto questa tela venire portata nell'Aula Magna dell'Istituto Visconti, appunto a Roma. E tutto questo allora è iniziato. E il lavoro si è svolto vedendo le due restauratrici, appunto Valeria Merlini e Daniela Storti, che hanno lavorato su questo quadro, e gli studenti nei momenti in cui, per esempio la ricreazione o anche dopo l'orario scolastico, potevano tranquillamente andare lì di fronte al quadro e vedere appunto le restauratrici che lavoravano, ma anche chiedere, domandare, sapere per esempio che tipo di tecniche si possono usare, il quadro, qualche elemento comunque che in una galleria non si può sapere, non si può vedere. Ed è stata un'esperienza secondo me molto importante, ma soprattutto formativa, perché comunque gli studenti non hanno mai la possibilità di poter vedere qualcosa del genere, perché comunque i restauri, a parte in alcuni musei per esempio dove vengono fatti dietro una teca di vetro e in certi orari si può vedere lavorare, ma in questo caso c'era veramente un filo diretto con chi restaura il quadro e gli studenti. Allora, io ringrazio Valerio e chiedo a Enrico, secondo te esperienze di questo tipo dovrebbero entrare nell'ordinaria offerta formativa dei licei italiani oppure secondo te, no, niente, è da considerarsi eccezionale perché per fare una cosa simile ci vogliono troppi sforzi rispetto alle condizioni di precarietà in cui già si vive nei licei e negli istituti con i bilanci scolastici precari. Che cosa ti arriva come lezione? È estendibile e da moltiplicare e tu hai imparato qualcosa che non ti aspettavi? Oppure no, è un'eccezione dovuta a una congiunzione astrale, Enrico? Beh, guardi, gli sforzi sono stati sicuramente tantissimi, quindi certamente le difficoltà ci sono, ma nel momento in cui un'esperienza dà risultati del genere, gli studenti si sentono talmente coinvolti da rinunciare, ad esempio come è accaduto da noi, a un'occupazione per dedicarci al massimo a questa esperienza, allora veramente sarebbe da moltiplicare in tutte le altre scuole, da ripetere nella nostra scuola, anche chissà per altre materie, perché comunque certo. Alla fine quello che è accaduto è che noi abbiamo toccato con mano quello che studiamo tutti i giorni su libri scolastici e quindi diciamo la nostra formazione è decisamente migliorata in questo senso. Enrico, dai un giudizio fuori dai denti, la partecipazione di voi studenti del liceo è stata più di facciata o siete stati coinvolti davvero forse anche più di quanto vi aspettavate? Perché all'inizio può sembrare una cosa un po' accademica, insomma a 17-18 anni uno non è detto che abbia davvero il trasporto e si faccia prendere da una cosa simile, ci va lì, guarda, dice babba, è successo qualcosa di diverso? No, guardi, le parlo sinceramente, cioè io in prima persona ho cominciato a studiare storia dell'arte quest'anno, ma l'esperienza è stata così coinvolgente ed è stata anche una sorpresa così grande per noi che quando avevamo tempo, in qualunque momento, non so, al cambio dell'ora o durante un'ora di buco, ci ritrovavamo in aula magna appunto con le restauratrici, con le ragazze dello staff e osservavamo i progressi che venivano fatti, e si sono scoperti nuovi elementi sulla tela. E quindi siete appassionato anche alla tecnica. Va bene, sì, allora adesso abbiamo, ohimè, un'ulteriore interruzione sull'informazione stradale e con Valeria Merlini e a quel punto anche la dottoressa Lucia Calzona della sovrintendenza entriamo nel punto, cioè nel punto per capire quanto è replicabile con le norme attuali dello Stato, quali sono le difficoltà per una cosa simile. Chi assicura cose di questo genere? Perché già ci chiedono, oh, mettete a rischio una grande opera, che se succede una cosa simile, mio Dio santo, sì, però la rendiamo fruibile dai giovani, capite? È una cosa forse essenziale perché la gente impari che cos'è ad amare l'Italia, ecco. Della belva. Eccoci qui tornati in diretta. Allora, Valeria Merlini è una restauratrice che nella sua impresa con altre restauratrici e restauratori ha lanciato quest'idea e ha portato quest'idea del restauro in un liceo a Roma, un liceo noto, insomma, autorevole, prestigioso per la sua tradizione. E abbiamo sentito i ragazzi. Valeria Merlini, io chiedo, ma di difficoltà per la moltiplicazione, l'estensibilità di una formula di questo tipo, che sembra banale, però non c'è nelle nostre scuole oggi, le difficoltà in che cosa consistono in realtà? Beh, dunque, consistono innanzitutto nel trovare dei luoghi idonei, perché come potete immaginare, come mi pare che avete già avuto occasione di toccare con mano, c'è subito diffidenza, no? Un quadro in una scuola, oh mio Dio, come se i ragazzi fossero pericolosi, no? Come se le scuole fossero dei luoghi pericolosi. Quindi innanzitutto bisogna trovare dei luoghi che hanno delle caratteristiche idonee per ospitare un laboratorio, quindi insomma diciamo l'aula magna del liceo Visconti è ovviamente un posto straordinario e poi bisogna applicare qualche piccola norma di sicurezza. Noi abbiamo inserito un sistema d'allarme, siamo stati sempre presenti, ecco, questo è molto importante, noi siamo stati sempre presenti e questo vuol dire che i ragazzi potevano venire veramente in qualsiasi modo e noi non solo non abbiamo dovuto difendere il quadro da nulla, ma siamo stati veramente straordinariamente gratificati da questa presenza continua, interessata, appassionata di giovani che sono veramente, i giovani sono il futuro del nostro paese. se un paese lungimirante dovrebbe investire sulla qualità dei cittadini di domani, questo è molto importante, e i ragazzi sono i cittadini di domani. Noi abbiamo offerto loro la possibilità di avvicinarsi al valore e anche alla tutela del patrimonio artistico culturale con dei mezzi, diciamo, un po' inusuali. Gli abbiamo portato un dipinto nella loro scuola e loro l'hanno visto da vicino, hanno visto. Ma perché se con le norme si può fare, perché voi l'avete fatto nel pieno rispetto di tutte le norme, perché se con le norme si può fare si fa così poco? Beh, dunque, perché non ci sono tanti privati siamo... come lei che si mette in gioco e spende pure di tasca sua, perché poi nel frattempo le spese voi le avrete sostenute, eccetera eccetera. Beh sì, dunque, allora questo innanzitutto è un progetto che sfrutta un finanziamento della Sovrintendenza dei Beni Artistici e Storici di Roma, che io ringrazio molto. Loro avevano affidato a noi questo quadro e con un finanziamento ordinario noi abbiamo utilizzato questo quadro per fare questa progetto, operazione, sì. Ovviamente noi ci abbiamo messo molto del nostro e soprattutto ci ha messo molto la società BEA, diretta da Fabrizio Russo, che io volevo ringraziare, perché questo progetto ha una seconda parte che segue la sensibilizzazione, che fa tante cose che adesso non abbiamo tempo di dire, incontri, seminari, certo. Conferenze. Non muore lì, certo, è un seme da cui esce. Abbiamo fatto un sacco di lavori con i ragazzi, anche durante la loro autogestione abbiamo portato lì la Guardia di Finanza per spiegare che cos'è la tutela del patrimonio, il recupero delle opere rubate. Adesso non c'è tempo di dire tutto quello che abbiamo fatto. Ma dopodiché noi abbiamo fatto abbiamo aperto una fase B, cioè abbiamo attivato i ragazzi a creare dei prodotti di comunicazione per sensibilizzare i loro coetanei. Cioè abbiamo detto ragazzi, è per questo che ho detto a chi ci ascolta di andare a vedere sul sito di Brave Art, infatti. Sì, braveartproject.it, andate a vedere che cosa hanno fatto i ragazzi, sono dei lavori veramente straordinari, noi li abbiamo fatti poi votare, hanno avuto un premio, sono veramente molto belli e devo dire che loro hanno reagito molto bene, quindi noi l'idea è che loro diventino un po' testimonial di questo tipo e di nostra, operazione. E la nostra speranza è quella che appunto dirigenti scolastici, presidi, sovrintendenze prendano iniziative così le facciano. Allora la domanda che faccio a Lucia Calzona della Sovrintendenza di Roma è appunto, visto che le norme attuali, come si vede, lo consentono, che cos'è che in realtà limita così fortemente la riproducibilità su scala, non voglio dire industriale, ma insomma molto estesa di esperienze di questo tipo, privati e pubblico, su un'opera direttamente nelle scuole? C'è un criterio diverso di fruibilità? Non mi risulta che ci sia nessun limite alla riproducibilità. L'evento si è creato per la genialità e la capacità sicuramente delle due restauratrici finora nominate. Da parte nostra siamo stati disponibili, perché mi sembrava un progetto estremamente interessante e fruttuoso, tanto per la conoscenza del patrimonio quanto anche per stimolare i ragazzi poi a conoscere per esempio anche gli stessi musei da cui provengono le opere, e quindi abbiamo assecondato tra l'altro una pratica assolutamente ordinaria. Indubbiamente ci vuole l'incontro appunto di persone così capaci con la disponibilità dell'amministrazione e anche trovare un sito come è stato il Visconti, in cui c'è stato anche un dirigente scolastico in grado di accettare il rischio minimo che comporta un evento simile all'interno di una scuola. Se posso, dottoressa, questo è molto importante, perché finalmente si afferma che il vero problema della proprietà pubblica di un'opera d'arte non è la tutela, ma la sua fruizione, non è l'ossessione della proprietà, ma un'intelligente proposta di processo esperienziale, no? Educativo. Io ricordo di la fondazione della Biblioteca Ambrosiana, qui tardo 500, Cardinal Borromeo, che rivoluzionando il mondo dice: i posti, le biblioteche non sono fatti per custodire i libri, ma per farli leggere. Questo era un po' il tema, che per cui lo Stato che si aggancia alla tutela della proprietà, ma non la fa fruire, non la usa come educazione, sta buttando. C'è un istinto di questo tipo un po' nel MIBAC, dottoressa Calzona? Di limitare la fruizione non direi, oramai sono talmente tanti anni in cui si è recuperato questo valore, però devo aprire una brevissima parentesi: i musei nascono per far accedere tutti quanti alle opere d'arte, questa è la funzione dal Settecento. Purtroppo nella storia italiana, avendo noi un patrimonio artistico ridondante, per circa 100 anni l'elemento tuteliamo il patrimonio è stata la matrice fondamentale. E lo so, poi e adesso però bisogna mettere a matrice una nuova